Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a chi è in viaggio, buongiorno a chi è magari a casa ed ascolta la radio. Bene, oggi parleremo di un argomento che non tratta il gusto, non tratta quindi qualcosa di molto così simile a tutte le altre puntate. Andremo su un qualcosa che abbiamo già trattato 4 anni fa, che era sullo spreco dei prodotti alimentari. Bene, ultimamente si è posto molto l'attenzione sul pane, ma io credo che questo sia uno dei tanti aspetti, e sul pane vorrei dire anche una cosa molto polemica, ma che sento profondamente, che sicuramente c'è spreco di pane, ma c'è anche un pane ormai mediamente in Italia che dopo 24 ore deve essere buttato perché diventa immangiabile. Quindi sicuramente ci sono responsabilità di chi butta, ma sicuramente anche responsabilità di chi produce. E continuando su questo, vorrei dire che lo spreco forse è anche il risultato dell'incitamento continuo ai consumi. Quindi di questi aspetti vorrei discuterne oggi, per andare a capire se ci sono dei sistemi, ovviamente, dove e come poter salvare dei prodotti che ancora sono salvabili, ma anche andare un po' a fondo per capire perché ultimamente, negli ultimi anni, c'è tanto spreco. Io vorrei così cominciare proprio questo argomento, che diciamo che è abbastanza sociologico, con un grande sociologo che è Gianpaolo Fabbris. Buongiorno Gianpaolo. Grazie Davide, buona giornata. Gianpaolo Fabbris è non solo professore ordinario, ma anche presidente del corso di laurea in scienza della comunicazione nella facoltà di psicologia al San Raffaele di Milano. Bene, Gianpaolo, tu ti sei sempre occupato molto di consumi, quindi sicuramente sei una delle persone che può dare questa risposta a questo mio interrogativo, che io lascio come interrogativo, anche se in cuor mio ho la risposta, però visto che è una trasmissione, visto che tanti possono intervenire, io lo metto come interrogativo. Non è che tutto questo spreco alimentare sia anche il frutto dell'incitamento ai consumi? Beh, certamente sì. Però sta succedendo una vera e propria mutazione antropologica nel consumatore, che prende atto che questa è la realtà. Per esempio, quest'anno si è speso meno mediamente nel settore alimentare, una delle prime volte che è successo qualcosa di questo genere. Io credo che in larga misura sia da imputare al fatto che la gente ha buttato via meno prodotti alimentari, nel senso che la crisi ha esercitato tanti effetti negativi, ma ne ha esercitato, a mio modo di vedere, anche tanti effetti positivi. No? C'è questa espressione che usano spesso gli inglesi di serendipity: cerco una cosa e trovo qualche cosa che ha un valore molto più alto, cerco qualcosa a un prezzo basso e mi accorgo di trovare dei veri e propri tesori. Ecco, lo sprecare, il buttare via soprattutto i prodotti alimentari sta diventando un disvalore, no? Cioè, non è un caso poi che nell'alimentazione l'eccesso dei consumi si manifesti in maniera così vistosa, con la bulimia, con le grandi obesità, con i ciccioni, dove veramente un eccesso di cibo non crea benessere, ma crea invece patologie di tipo inquietanti. Poi naturalmente le responsabilità, anch'io credo che ce ne siano molte, io ne vedrei anche Davide nella distribuzione, perché io sono da anni che dico, ma poi sai, non conto niente, che forse bisognerebbe avere una data di scadenza dove, al di là della quale non si può non si può vendere il prodotto, e una data di scadenza al di là della quale è consigliato non consumarlo più. Noi sappiamo che lo yogurt non diventa immangiabile il giorno dopo la data di scadenza, forse ha un po' meno di micro di organismi, non so come si chiamano, sono questi effetti dello yogurt, ma è assolutamente commestibile. Ma cioè, devo dire che quasi buona parte, larga parte dei prodotti, diciamo, con la data di scadenza si può andare oltre sicuramente di parecchi giorni. Ma ti interrompo perché abbiamo già un radioascoltatore, ricordo comunque il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Sentiamo Luca dalla provincia di Bergamo, buongiorno Luca. Buongiorno Davide, saluto tutti i radioascoltatori. Io sono. Puoi spegnere la radio perché c'è il rimbombo, per cortesia? Sì, scusatemi. Dicevo, io sono un commerciante della provincia di Bergamo, i miei hanno un'attività da diversi anni, un ristorante, anche se piccolo, una realtà molto piccola, ma proprio lì sta il fascino, dicevo. E l'argomento così mi incuriosiva perché io credo che sia una cosa che appartiene ai primordi della nostra, di quella che poi è un'arte nobile, no? Ma il recupero, che io chiamo recupero riutilizzo, oso chiamarlo, perché riciclaggio o recupero così mi imbruttisce un po'. Hai ragione, hai perfettamente ragione, ho usato questa parola, ma hai ragione, deve essere usato recupero. Continua. Il recupero, perché, esatto, no, dicevo, il recupero perché secondo me è proprio il fascino di questa, non è il ripiego, perché molti pensano che sia il ripiego di questa arte, perché è troppo comodo avere sul tavolo materie prime eccellenti e poi tirare fuori un piatto fantastico, beh, non è da tutti ovviamente, comunque diciamo che è più facile che non avere un frigo vuoto con quattro cose che sono lì che appassite, ma che non questo non toglie il fatto che siano ancora buone. Grazie Luca. Sentiamo, abbiamo con noi il professor Fabris, ha parlato appunto di anche diciamo di colpe, mettiamolo così, della grande distribuzione nell'indicare date di scadenza di prodotti, e ha proposto data di scadenza e però data anche di consumo ultimo. Sentiamo cosa ne pensa Maurizio Cavazzan, direttore marketing della Coop Lombardia. Buongiorno Cavazzan. Buongiorno a voi. Non so se ha sentito... Sì, ho sentito la domanda. Sì. Alcune date di scadenza sono stabilite per legge, chiaramente non si può fare un discorso unico per tutte le referenze. Sicuramente noi siamo tenuti a vendere prodotti che entro la data di scadenza. L'altro tipo di indicazione è un'indicazione che in altri paesi europei viene data, per esempio per il latte, cosa che non avviene da noi perché la legge stabilisce tassativamente la data di scadenza sulla confezione. Bene, sentiamo un'altra radioascoltatrice, Rita dalla provincia di Milano. Buongiorno Rita. Sì, buongiorno. Allora, io ho sentito appunto la sua trasmissione e mi è venuto in mente diciamo una ricetta proprio per recuperare il pane, no? Per recuperare il pane in maniera direi abbastanza elegante, perché non si tratta di frittura e che quindi non ha un rovescio della bilancia per dire recupero, però sento male da un'altra parte. E questa mia amica si chiama Nuccia, è di Bari e però abita a Milano e mi ha dato questa ricetta. È una cosa molto veloce, se vuole gliela posso elencare. Bene, guardi, abbiamo tante telefonate. Bene, ci dica velocissimamente però questa allora, ricetta. Niente, il pane che abbiamo da recuperare lo possibilmente tagliamo fette e poi prepariamo a parte un intingolo a base di passata di pomodoro con sale, origano, basilico, si miscela tutto con due cucchiai di olio e poi queste fette di pane devono essere inzuppate proprio da una parte e dall'altra in questo intingolo, messe in una tegliera da forno, coperte con una fettina di mozzarella e ricoperto il tutto con questo sugo. Bene, grazie Rita. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di spreco o sobrietà, si può porre anche questo come tema. E io voglio leggere un SMS per fare una domanda al professor Fabris. Un radioascoltatore ci scrive: si buttano cose quanto costano poco. Cosa ne pensi, Gianpaolo? No, non è vero questo. Purtroppo è una patologia questa del buttare via, che era finito per coinvolgere tutti i prodotti. Naturalmente è stata accentuata dalla presenza di confezioni familiari, perché finiscono poi sempre per lasciare dei resi. Io direi che una volta almeno era inversamente proporzionale al carattere simbolico che avevano i prodotti. Io ricordo che da piccolo, ad esempio, le briciole di pane, mia nonna mi diceva: le devi raccogliere tutte, altrimenti quando sarai in purgatorio vedrai, passerai tutto il tempo perché nostro Signore non te lo permetterà. Cioè, il pane, sappiamo, è il corpo di Cristo, ha una serie di significati simbolici molto importanti, per cui è più interdetto spesso buttare via dei prodotti che mantengono ancora queste caratteristiche. E guarda, ma tu lo sai molto meglio di me, Davide, che ci sono centinaia di ricette non particolarmente sofisticate. In Toscana da me c'era la panzanella, la pappa col pomodoro, bastava mettere un po' di tempo in forno, il pane. È chiaro che poi è più, ripeto, un fatto simbolico che non un fatto reale. Non è che buttare via la frutta sia meno colpevolizzante di buttare via il pane, però mi sembra che ci sia per alcuni prodotti in maniera specifica, certo, una particolare valenza al di là del costo del prodotto stesso. Grazie. Guarda, la mutazione antropologica non riguarda soltanto, io mi rendo conto che il gastronauta si occupa di cibo prevalentemente, ma la durata sta diventando una caratteristica nuova richiesta a tutta una tipologia di prodotti, il contrario dell'usa e getta, il contrario, e non è il moralismo oppure i cultori dei bisogni poco e semplici, insomma quelli che hanno sempre diffidato in qualche maniera del consumo. Vediamo da persone assolutamente laiche che facevano un uso abbondante e frequente di consumi, che adesso cominciano a prendere le distanze e accorgersi. Tu hai usato la parola sobrietà. Sobrietà è una buona parola, perché se si contrappone all'etilismo, all'ubriacatura di un passato recente. Grazie, grazie Giampaolo, grazie di questo tuo intervento. Sentiamo Carlo da Pavia, un radioascoltatore. Sì, buongiorno. Io sono molto contento di questa che si parli di questa cosa, perché noi sono, come allevatore di bestiame, sono anni che utilizziamo il pane del giorno prima, cioè io compro il pane, mi portano il pane ritirato la mattina, quando portano ai supermercati il pane fresco, ritirano quello vecchio, poi me lo portano a 5 euro al quintale, quando costa al consumatore 300 euro al quintale, lo pago 5 euro al quintale, il pane che è perfettamente commestibile. È una cosa che grida vendetta, perché è uno spreco totale. E un'altra cosa che grida vendetta è l'utilizzo, il non utilizzo dei biscotti non perfettamente integri. Noi compriamo camionate di biscotti che se non sono tutti al 100% integri, ce ne sono solo due o tre biscotti in una confezione rotta, viene scartata e viene buttata. E questa è una cosa che grida vendetta veramente, ma da anni succede. Sono molto contento che finalmente se ne parli. Grazie Carlo. È una cosa culturale veramente. Grazie Carlo, io prego, che ci sono altre così esperienze come questa di Carlo, di intervenire. 800 24 00 24 349 238 6666 per i messaggi SMS. Sentiamo Enzo dalla provincia di Varese. Buongiorno Enzo. Buongiorno, salve. Allora, premesso che io sono molto, diciamo, per dire, sono molto, abbastanza sensibile a questo discorso soprattutto per quanto riguarda il cibo in generale, per il riciclo, recupero, come dir si voglia. Mia moglie mi chiama di scarica. Detto questo, volevo sapere, i cibi tipo quelli conservati nelle buste, come i risotti già preparati, precotti, che hanno delle scadenze precise, no? Sopra scritto da consumare preferibilmente entro il... Io ho provato a mangiarli anche un mese, due mesi dopo che erano scaduti, ma mi sembravano buonissimi, perché non mi va di buttarli, certo. Assolutamente. Detto questo, la domanda precisa era proprio se c'era una persona esperta che poteva dare qualche indicazione più precisa in merito a questo, cioè un conto è prendere i ravioli che te li spacciano come freschi, e quindi io li mangio anche quelli, dopo una settimana non c'ho problemi, ma probabilmente io ho uno stomaco particolare. Questo discorso invece... Sì Enzo, essere... guardi, abbiamo con noi Maurizio Cavazzan, che è direttore marketing della Colombardia, magari che può dare un aiuto. Cavazzan, ha sentito? Sì, ho sentito, ecco, io non sono un esperto di tecnologia alimentare, comunque ammetto che anche a me può capitare di consumare dei prodotti oltre la scadenza, però... È chiaro che un produttore deve apporre la data di scadenza, anche perché poi noi sappiamo quello che succede, come conserviamo il prodotto nel punto vendita, quello che poi accade a casa del consumatore, quindi magari non viene conservato correttamente nel frigorifero, non viene trasportato a temperatura ideale, per cui la data di scadenza andrebbe sempre osservata, ma non per una questione di incentivare i consumi, ma proprio per tutelare la sicurezza dei consumatori. Bene, grazie Cavazzan, la ringraziamo del suo intervento. Sentiamo Enzo dalla provincia di Varese. Buongiorno Enzo. Sono sempre quello di prima. Ah, mi scusi, abbiamo ancora davanti. No, beh, quindi allora abbiamo con noi da Varese proprio il titolare della panetteria Piatti, che da anni ha ideato un progetto di rottamazione del pane. Buongiorno Piatti, ce ne vuol parlare? Buongiorno, guardi, è un incentivo che ho proposto appunto l'anno scorso per sensibilizzare i clienti a non buttare il pane raffermo, ma riportarlo a noi per girarlo a canili piuttosto che a proprietari di fattorie o roba del genere. Quindi lei cosa combina, cosa fa con questo pane? Praticamente lei lo trita, cos'è no, che... No, lo regalo a proprietari di canili o fattorie. Quindi questo, cioè diciamo questo progetto di rottamazione è questo, di regalarlo a canili e a chi ha detto, scusi? Di fattorie, chi ha delle bestie, chi ha animali. Ecco, che risultati gli hanno dato, cioè questa rottamazione? Lei riesce ogni giorno quindi... No, è poca roba, poi è stato il boom di un mese, non è che... cosa continua, comunque poco, ne portano indietro poco. Va bene, grazie, la ringrazio. Davide Piatti, panettiere in Varese. Greta dalla provincia di Mantova, una radioascoltatrice, buongiorno. Buongiorno, io volevo portare la nostra esperienza e dire in pratica che come gelato, parlando soprattutto del gelato alla frutta, va utilizzata la frutta più profumata, quindi quella ovviamente più matura, non ovviamente marcia, ma la più matura, la più succosa e saporita, che generalmente il consumatore finale scarta proprio perché diciamo l'esigenza di tenere della frutta in casa che duri per più giorni, mentre nel nostro caso non è così e anzi quando è ben matura il gelato diciamo che ottiene risultati migliori dal punto di vista sia della profumazione che del gusto. Ma lei dove recupera questa frutta? Dal fruttivendolo ai mercati? Noi da un fruttivendolo di fiducia, ma soprattutto quando ci troviamo al mercato contadino. Noi siamo del Basso Mantovano, quindi il mercato contadino di Mantova ormai ci conoscono tutti e i fruttivendoli, sapendo in base alla stagionalità della frutta quella che utilizziamo per i nostri gusti, appunto a fine mercato ci fanno avere la frutta, quella o che è stata scartata perché magari era meno bella da vedere, oppure insomma la più matura, diciamo. Bene. Che è quella che noi scegliamo proprio perché i gusti sono migliori. Grazie a Greta della provincia di Mantova. Ora abbiamo con noi il direttore del Banco Alimentare, Marco Lucchini, forse l'esperienza più importante di questo paese di recupero appunto di cibo, e a lui vorrei più che così capire i meccanismi, porgli questa domanda: se sta crescendo questa coscienza, diciamo un po' in tutto il paese, di non buttare, di recuperare e quindi di sprecare sempre meno il cibo. Ma buongiorno anzitutto, grazie per l'invito. Direi di sì. Io sono 21 anni oramai che in Italia ho a che fare con questa fantastica esperienza del Banco Alimentare, e se penso appunto alla Milano da bere dei fini anni 80, primi anni 90, direi che assolutamente, forse anche grazie al lavoro che Banco Alimentare ha svolto di sensibilizzazione all'inizio nei riguardi delle aziende alimentari, poi pian piano oramai collaboriamo col mondo dell'agricoltura, con la grande distribuzione, fino ad arrivare alla ristorazione, per cui vedo che anche le persone, i cittadini, stanno diventando sempre più attenti, e lo vedo proprio nei fatti concreti di tutti i giorni. Un esempio tra i tanti, nel progetto City Cibo, che prevede proprio il ritiro del pane anche nelle scuole. Noi ne abbiamo 90 a Milano e all'anno recuperiamo circa 350 tonnellate di pane. I bambini stessi hanno imparato a sciuparlo meno, e gli insegnanti ci dicono: per tanto tempo abbiamo cercato di dirgli, di spiegargli che non era giusto, ma sta di fatto che l'hanno iniziato a fare quando hanno fatto un'esperienza concreta, dicendogli: guarda che se non sciupi quel pane, perché non è che lo buttano via ma ci giocano magari, c'è un altro bambino che avrebbe piacere di mangiarlo. Da lì in poi hanno imparato anche a non sciuparlo più e tornano a casa e raccontano di questa esperienza. Allora anche a casa diventa un ritorna a essere un patrimonio, perché sentivo prima giustamente il valore della sacralità del pane. Quindi sicuramente, e ultimamente ho sentito anche delle catene della grande distribuzione dirmi: guardi, fino a poco tempo fa valutavamo che il concetto fosse la qualità estrema, quasi diventasse un dio assoluto, e il resto si doveva buttare via per sicurezza. Ora capiamo che invece questa sicurezza può essere comunque garantita attraverso un'organizzazione come la vostra, e quindi oltre che garantire i nostri acquirenti possiamo anche sostenere, aiutare chi non può acquistare ma che comunque ha la necessità di sfamarsi con prodotti ottimi, non facciamo mai confusione, noi non trattiamo mai rifiuto, casomai impediamo che dei prodotti buoni diventino rifiuto. Senta Lucchini, emerge sempre questo discorso della scadenza apposta nei prodotti. Lei non pensa che crei molta, così, molta confusione e che molti siano tentati appena vedono il giorno che scade a casa, magari in frigorifero, buttino tutto non sapendo che magari può durare ancora 2 o 3 giorni quel prodotto? Allora, dato che prima è stata fatta una domanda su questo, chiariamo una cosa: i prodotti a che scade il sono di fatto 2, 3 prodotti, cioè il latte fresco, la panna fresca, tutto il resto è un consiglio che l'azienda dà per consumare al massimo delle qualità organolettiche del prodotto, il che non vuol dire che non si possa consumare. Certo. Bene. Quindi è un problema di educazione al consumo. Certo, certo. Non del prodotto. Allora bisogna dire attenzione. Quando è conservato, certo la conservazione poi dopo personale in casa propria è importante, che è conservato in modo idoneo, il prodotto che è preferibilmente da consumare entro può essere ancora consumato tranquillamente anche dopo. Certo ha un fattore anche commerciale per aumentare la rotazione dei prodotti, per comunque garantire, perché io produttore voglio dirti, io ti do il massimo in queste condizioni. Da lì in poi sappi che, non certo, dico che fa male, però che magari non è più così fresco, non è più, cioè, non è più, ma non che il prodotto diventa nocivo, ecco, togliamoci questo problema che non esiste. Grazie a Marco Lucchini del Banco Alimentare del suo intervento, grazie e buongiorno. Il gastronauta. Spreco e recupero dei prodotti alimentari, questo è il tema. Sentiamo Franco da Chiasso, un radioascoltatore. Buongiorno Franco. Buongiorno, io sono un ristoratore della Svizzera italiana e ho 2 problemi concernenti questa trasmissione. Uno sulle scadenze. Noi abbiamo dei grandi problemi con i nostri NAS, non si chiamano NAS ma sono i controlli sanitari, per i formaggi. I formaggi, noi abbiamo dei formaggi di 3 anni delle Alpi ticinesi, squisitissimi, prelibatissimi e rarissimi, che se venissero controllati dovrebbero essere gettati. Questa. E mentre per gli scarti, vicino al nostro ristorante abbiamo dei centri di distribuzione di frutta e verdura dei supermercati svizzeri, di tutta la Svizzera, merce che arriva dall'Italia e dalla Spagna. Lei immagina che cosa viene gettato? Palette intiere di fragole spagnole quando la settimana dopo arrivano quelle italiane. Pinocchi che sono sotto misura o hanno un piccolo segno nero sulla buccia. Angurie, meloni. La frutta viene distillata e abbiamo dei distillati, come le dico, di una altissima qualità. I nostri maiali mangiano verdure a tutto spiano e frutta a tutto spiano e abbiamo degli insaccati di grande qualità. Insomma, non toglie che buttiamo via della gran roba. Insomma, vuol dire che da un lato gli sprechi almeno servono a qualcosa, non vanno a finire magari rottamati completamente. Bene, grazie Franco della questa testimonianza svizzera. Bene, abbiamo con noi Lino Stoppani della famiglia Stoppani, appunto proprietario di PEC, che ha anche altri incarichi a livello nazionale, ma oggi lo voglio chiamare, appunto lo chiamo proprio come PEC. Volevo chiedere un negozio come Pecco, è così importante, così con grande movimento, come recupera? Oppure cosa succede quando, diciamo, ci sono prodotti che stanno per scadere, oppure prodotti che sicuramente sono da buttare? Cosa si fa prima di buttarli? Lino, buongiorno. Buongiorno Davide, a lei e ai radioascoltatori. Ma innanzitutto c'è da fare una premessa. Oggi certamente parlare di scarti è assolutamente un termine improprio. Trattasi normalmente di ingredienti ancora perfettamente edibili che probabilmente hanno una destinazione diversa rispetto alla quale erano stati acquistati. Ma oggi il commerciante, il consumatore stesso sa molto di più su quelle che sono le dinamiche del prodotto in termini di tossine, di rischi igienico-alimentari. C'è una tecnologia migliore rispetto al passato, basti pensare alla catena del freddo che allunga la scadenza di vita dei prodotti, di tecniche nuove come la congelazione, la surgelazione, il sottovuoto, l'atmosfera modificata. Oggi c'è anche maggiori controlli da parte degli organi ispettivi incaricati di fare questo lavoro, finalizzati non solo a fare verbali di contestazione ma anche a fare formazione sugli aspetti igienico-sanitari. Al di là di questa premessa è chiaro che dietro la gestione di un negozio c'è anche la razionalizzazione di quello che è il processo di commercializzazione di un prodotto e anche la capacità di produrre in funzione di quelle che sono le capacità di vendita del negozio ed essere poi pronto eventualmente a tamponare quelli che sono magari eccessi di produzione. Allora, gli eccessi di produzione oggi la cucina italiana offre tantissime alternative, per cui distinguendo tra quelli che sono magari prodotti crudi rispetto ai prodotti cotti, ma tanti prodotti anche nella nostra attività, pensi per esempio alla prima fetta dei salumi, del prosciutto, del salame o della coppa del culatello che sono le prime fette ossidate perché hanno preso aria, ma questi sono assolutamente edibili, per cui quello che è l'utilizzo per esempio nel fare ottimi di ragù per le lasagne, per i ravioli di carne oppure per gli stracotti, sono una caratteristica che un buon commerciante deve saper fare. Poi quella che è l'assortimento delle ricette italiane, parlo per esempio a Milano dei mondeghiri, delle crocchette, dei ragù di carne, offrono evidentemente da una parte la necessità di offrire sempre al cliente il miglior taglio delle carni, il miglior taglio dei salumi, dall'altra l'assortimento di quelle che possono essere ricette consentono un perfetto riutilizzo di queste materie che non sono scarti ma sono, ripeto, ingredienti assolutamente edibili per altre lavorazioni a cui aggiungono magari qualcosa in termini di sapore. Bene, lei è stato chiarissimo, grazie a Lino Stoppani di questo suo intervento. Sentiamo Paolo da Novara, un radioascoltatore. Buongiorno Paolo. Buongiorno, io ho sentito prima l'intervento di Carlo, credo, che parlava di biscotti di seconda scelta che lui acquista a prezzi insomma molto bassi, ecco. Per la nostra famiglia, tra biscotti per noi e i bimbi, spendiamo parecchio. Mi piacerebbe sapere dove si potrebbero recuperare questi biscotti. Bambino, abbiamo capito, abbiamo capito la sua domanda, grazie, la rimandiamo al bambino. Chiediamo al radioascoltatore che è intervenuto prima, magari se fa un sms su questo con dare le indicazioni. Bene, ora abbiamo un'esperienza di un panettiere, Davide Longoni, della panetteria Longoni di Carate Brianza. A quanto so, Davide Longoni sta lavorando con l'associazione dei panificatori su ottenere dei pani che possano resistere, diciamo, più di quello che resistono oggi. È così, Longoni? Sì, è così. Io sono onesto, buongiorno a tutti, che il pane lombardo, il pane nazionale italiano, è di cattiva qualità. Questo devo fare autocritica per me e per tutti i miei colleghi. Beh, io l'ho premesso questo. Io direi in tutta Italia, non solo in Lombardia. Sì, tutta Italia. E secondo me la causa va in un cortocircuito che si è creato tra panettiere e consumatore, perché il consumo di pane è crollato in questi ultimi anni e la risposta che ha dato il fornaio è quella di produrre moltissimi tipi di pane, arriviamo a farne tipo 40 o 50 tipi al giorno, e questo porta inevitabilmente a trovare delle scorciatoie, quindi i semilavorati, il precotto, i pani piccoli di vario formato, e questo porta la gente ad arrivare alla sera e a mangiare un pane di cattiva qualità. Mentre il pane storicamente è un prodotto che deve durare più giorni, e la mia risposta è quella di fare una re-innovazione e recuperare tecniche antiche, quali la pasta madre e il grosso formato, che a mio parere danno un pane migliore, con maggiori profumi, più gusto e dura più a lungo. È quasi fosse una ancora materia viva che evolve nel tempo, come il vino, come il formaggio, e un pane di 2-3 giorni è ancora un'esperienza sensoriale fantastica. È quello che propongo ai miei clienti. Bene. Faccio inoltre dei corsi domestici per indicazione, in 2 anni ho fatto circa 600 corsisti con me, in cui io cerco di coinvolgerli in questo mondo culturale, perché per me il pane è una cultura, la cultura occidentale si basa sul pane, senza pane non ci saremmo, non ci sarebbe città, non ci sarebbe cultura. E questa è la mia esperienza. Bene, quindi il pane di ieri, da il famoso libro di bellissimo, sì, libro di Enzo Bianchi, il pane di ieri. Enzo Bianchi. Questa è una verità non solo spirituale ma anche materiale. Beh, questo... grazie Davide Longoni del panificio Longoni di Carate Brianza, che tra l'altro è uno dei pochi panifici aperti alla domenica con pane fresco, quindi un merito anche a questo sicuramente deve andare a questo panettiere. Sentiamo Piero da Modena, un radioascoltatore. Buongiorno Piero. Buongiorno. No, io volevo parlare, io sono, per quanto sia un single, quindi portato probabilmente allo spreco, in quanto le porzioni sono... adesso l'hai inventate da poco quelle da sigo, io non sono mai riuscito a sprecare, non dire neanche un tortellone che è rimasto lì da un piatto, però quando vengono i miei ospiti aprono il frigo, dico che cosa fai, muori di fame, non c'hai niente, e invece perché è tutta dalla parte superiore della parte del freezer, e io ho il pane, appena riprendo il pane lo prendo una volta a settimana, 1-2 kg, e lo metto sopra. Prendo anche le porzioni per spendere meno le grandi, poi le divido, le metto in freezer. Una gestione oculata, come dice Giusi, una radioascoltatrice. Tra l'altro gli SMS sono tantissimi, non so se riuscirò a leggerli tutti. Nell'era dei congelatori è pazzesco sprecare tanta roba. Grazie al nostro Piero da Modena che ci ha insegnato così la vita da single. Bene, sentiamo, abbiamo con noi il direttore generale dei mercati generali agroalimentari di Milano, Pierangelo Mappelli. Buongiorno Mappelli. Buongiorno a tutti. Volevo chiederle, Mappelli, visto che il mercato del pesce di Milano è sicuramente il più importante d'Italia, il mercato dell'ortofrutta è enorme, quindi tutti i mercati sono straordinariamente larghi, importanti e sicuramente con un giro di merce enorme. Quanto viene buttato da un mercato? Quanto viene buttato? Diciamo che i grossisti venditori buttano pochissima roba. Io ho una statistica che mi dice, perché facciamo la certificazione, molti ci chiedono la certificazione perché è in conto vendita, circa lo 0,5%, sono 14-15 mila quintali di roba, no, però la cosa che viene buttata è chi acquista il mercato, chi acquista spesso riporta l'invenduto in mercato per buttarlo, ed è circa un'incidenza dell'1% sul giro d'affari dei volumi che ci sono nei mercati di Milano. Soprattutto questo riguarda la frutta. Pesce e carne viene buttata quasi nulla. Quindi il pesce quasi nulla? Sì, perché viene venduto e addirittura c'è un'azione molto interessante che viene fatta all'interno del mercato, che al sabato, oggi per esempio, i mercati sono aperti al pubblico, per cui le rimanenze vengono vendute a prezzi, diciamo, quasi di grossista. Senta, comunque al sabato viene venduto anche pesce magari che arriva la domenica notte? No, questo non può succedere, perché domenica notte ormai è già venduto, c'è il congelato. Ecco, questo pochi lo sanno che il mercato è aperto al sabato, sì, pochi consumatori. È un servizio molto importante. Infatti è una grande occasione, quindi, sì, per poter sì, acquistare. È una grande occasione, è aperto tutti i sabati dalle 9 a mezzogiorno, può accedere chiunque. Infatti c'è un giro di persone che va da punti di 8.000 persone, 12.000 persone, nei momenti clou, soprattutto Natale, via dicendo, c'è un afflusso molto elevato, si trova buona roba, nel senso che è roba, un prodotto per esempio sull'ortofrutta, si trova frutta fresca, no, perché stiamo parlando di prodotto fresco, a prezzo di mercato, quindi... per esempio le arance 0,40 centesimi al chilo vanno via, la cassetta la vedo anche a 1 euro a fine giornata oggi, vanno via con la cassetta di arance a un costo di 1 euro, prodotto buono, maturo, perché è chiaro che è maturo, si tratta di saper scegliere, o il fogliame ha una durata brevissima, no? Si porta via una cassetta di insalata, di roba buona, o di cicoria, o di altre cose, buone da mangiare a un certo prezzo quasi irrisorio. Grazie Mappelli, grazie. il gastronauta. Spreco, recupero, sobrietà, questi sono i temi di cui stiamo discutendo. Sentiamo, abbiamo molti radioascoltatori. Carla dalla provincia di Reggio Emilia, buongiorno Carla. Buongiorno. Io volevo portare la mia esperienza. Qui nel nostro paese, a Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia, siamo un gruppo di volontari, diciamo che seguiamo diverse associazioni, e tutte le sere, ormai d'accordo con i supermercati che abbiamo qui nella nostra zona, sto parlando di Coop e di Conat, tutte le sere andiamo a prendere gli alimenti che durante il giorno rimangono, diciamo gli alimenti freschi, come pane, focaccia, e due volte alla settimana anche tutti gli alimenti che sono in scadenza. Ecco, abbiamo anche una segnalazione infatti di una radioascoltatrice che dice: un supermercato Conad vicino a casa mia propone la merce con scadenza ravvicinata a prezzo dimezzato, io ora spreco molto di meno. Bene Carla, quindi vediamo che così i supermercati, sicuramente qualche supermercato si sta muovendo in questa direzione, sicuramente dando una mano sia nell'una e nell'altra, nell'altro aspetto, cioè quello della vendita ma anche quello del recupero. Grazie, grazie. Sentiamo Angelo dalla provincia di Foggia, buongiorno Angelo. Buongiorno. Davide, senta, io volevo portare la mia esperienza perché voglio dire, se uno mangia tutti i giorni controlla anche la dispensa, il frigorifero tutti i giorni, per cui voglio dire, se il pane, che so, è un poco vecchio così, lasciandolo asciugare magari in forno, quando si utilizza il forno si può sbriciolare per fare il pane per la panatura. Oppure per esempio con la frutta si fa dell'ottima macedonia, anche se è un poco marcia, si scarta quello che è marcia, un po' di limone e un cucchiaino di zucchero e vengono delle macedonie straordinarie. O l'affettato, che è un poco vecchio, si fanno delle pizze rustiche straordinarie. Bene. Angelo, grazie, grazie della sua testimonianza. Io credo che sono in molti a recuperare come lei in questa maniera. Purtroppo non tutti, perché vedendo i dati sul, diciamo, quello che viene buttato, non tutti si comportano in questa maniera. Ma prima Marco Lucchini, il direttore del Banco Alimentare, ha fatto riferimento a City Cibo. Bene, abbiamo con noi Giuliana Malagutti, che è la responsabile del coordinamento e sviluppo nazionale di City Cibo. Io volevo chiedere alla Malagutti, così, se brevemente ci dà così un'idea di come funziona City Cibo. Buongiorno, sì. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Davide, buongiorno ai radioascoltatori, grazie di ospitarci. Allora, City Cibo, come credo abbia già anticipato il nostro direttore generale Marco Lucchini, è un'attività dedicata al canale della ristorazione organizzata e alla grande distribuzione organizzata. La nostra attività prevede di recuperare prodotti freschi e cucinati che escono dal circuito commerciale, quindi che di norma verrebbero smaltiti nel compattatore, attraverso una serie di procedure e l'apporto fondamentale di tutta una serie di persone che come volontari ci offrono il loro tempo per recuperare questi prodotti. Come funziona la nostra attività? La nostra attività ha vari momenti nell'arco della giornata ed esiste in varie città d'Italia, in primis Milano, che è la città dove nel 2003 siamo nati. Oggi City Cibo esiste anche a Como, Roma, Firenze e Modena, e abbiamo studi di fattibilità, cioè raccolta di informazioni per capire se il nostro progetto può essere replicato anche in altre realtà d'Italia. La nostra attività, diciamo così, giornaliera si svolge la mattina con il recupero dei piatti pronti cucinati in esubero da mense aziendali, ristoranti e hotel. Poi a metà giornata ritiriamo prodotti da forno, da esercizio al dettaglio, i prodotti che vengono ritirati da ipermercati, supermercati, stiamo parlando del prodotto fresco, quindi frutta, verdura, la quarta gamma, i limiti della scadenza, tutti quei prodotti che devono essere ritirati dallo scaffale, che verrebbero, diciamo così, smaltiti insieme al rifiuto. E nel pomeriggio raccogliamo il pane e la frutta da scuole che sono oggi 118, Milano, Como, Firenze sono le città dove appunto effettuiamo questa attività, e tutti questi prodotti che vengono recuperati ovviamente secondo procedure rigorose, anche perché stiamo parlando di prodotti, pensate ai piatti pronti cucinati, molto delicati, che devono essere consumati nel giro di poche ore, trattati con attenzione e cautela. Tutti questi prodotti nel giro di poche ore finiscono Bene. Sulle tavole degli enti che poi gli danno i propri assistiti. Grazie, grazie Giuliana Malagutti. Volevo ricordare che esiste anche un'altra organizzazione a Bologna, Last Market, basket, che è legata all'Università di Agraria del professor Segre, che è stata forse una delle prime in Italia a muovere diciamo, questa tipologia di intervento. Non ne abbiamo parlato oggi perché ne abbiamo parlato molto spesso anche in precedenti esperienze e trasmissioni. Sentiamo Marinella dalla provincia di Monza, una radioascoltatrice. Buongiorno Marinella. Buongiorno, sono felicissima di parlare con lei. Bene, mi dica. Io volevo appunto portare questa piccola esperienza per quanto riguarda il pane. Diciamo che cioè io sono alla ricerca del pane secco per motivi di salute, no? E mi sento dire dai fornai, dai panettieri, no, non possiamo darle il pane secco, e faccio, perché fa? E perché dobbiamo buttarlo? Bene, questo è molto grave, e speriamo che siano... Dice, per legge non possiamo darlo, lo dobbiamo buttare. Dico, cioè, è una cosa ben grave questa. Poi, per quanto riguarda la data di scadenza degli alimenti, tipo lo yogurt, io ho mangiato uno yogurt scaduto da 20 giorni. Era buono. E non mi è successo niente, certo. Neanche il famoso effetto Marcuzzi. Sì, ne abbiamo parlato molto di questo discorso della scadenza, ecco. Quindi ormai penso che sia chiaro, cioè sicuramente ci sono dei prodotti freschi, come è stato detto, che la scadenza bisogna rispettarla, altri che non sono nocivi. Grazie a Marinella dalla provincia di Monza. Sentiamo Enzo da Latina, buongiorno, un altro radioascoltatore, buongiorno, mi dica. Buongiorno Paolini, io chiamavo perché in pratica anch'io faccio un po', sono un singolo, faccio vita, il tempo non è che ce ne sia tanto per andare in giro, mi piace comprare il pane, mi piace anche quello riposato, ma farlo riposare è impossibile perché in pratica dopo qualche giorno va male, quindi sicuro. Io mi ricordo che mia nonna quando faceva il pane lo faceva una volta ogni 15 giorni ed era buonissimo, era lievitato bene, e quindi questo penso che la lievitazione e la vendita di pane un po' lievitato un po' meglio sia qualcosa che oggi forse si è perso. Io giro per qui per la continua delle volte per cercare un pane che abbia queste caratteristiche, delle volte faccio anche 10 km per andare a comprare. E mi piacerebbe anche pagarlo di più, ma avere un prodotto che poi uno in casa lo può tenere, lo può consumare appunto nell'arco di una settimana, delle volte anche di più. Bene. Ma oggi è praticamente impossibile. Grazie, ma questo non è solo il suo problema, è il problema di moltissimi in molte città italiane, forse molto meno in certi luoghi di provincia. Abbiamo con noi Giuseppe Iasparra, che è tra gli organizzatori dell'iniziativa Quanto pesa la tua spesa. Mi sembra che questa organizzazione abbia organizzato qualcosa che riguarda la frutta nei mercati di Torino. Buongiorno Iasparra, è così? Sì, buongiorno. Sì, esatto, buongiorno a tutti. Noi di Eco dalle Città, notiziario web per l'ambiente urbano, insieme al Centro Studi Sereno Regis, abbiamo creato questa iniziativa che consiste in un frullato per riflettere su cibo ambiente. Abbiamo già ripetuto 3 volte questa iniziativa e ci rechiamo presso il mercato torinese di Porta Palazzo, muniti di buste e di un paio di cassette di legno, intorno alle 14, quando i venditori stanno smontando i banchi, e si iniziano in quel momento ad accumulare dei mucchi di frutta e verdura che è stata scartata e però non venduta. Una parte di questa frutta è ancora buona per essere consumata e magari non viene venduta solo perché esteticamente non è perfetta. Quindi ci siamo messi a raccogliere la frutta al mercato, abbiamo raccolto nell'ultima occasione 15 kg di frutta. Tutta questa frutta, in quell'occasione era autunno, era il 25 settembre, mele, pere, pesche, uva, l'abbiamo poi lavata, frullata e senza aggiungere zucchero e latte abbiamo creato un frullato naturale e gustoso che poi la sera abbiamo portato in centro a Torino perché in quell'occasione c'era la notte verde della città di Torino, e armati di brocche e bicchieri abbiamo distribuito il frullato ai passanti cercando di sensibilizzare le persone al tema della riduzione dei rifiuti. C'è da dire che dopo 1 ora e mezza i 9 litri di frullato erano già finiti. Bene, bene. Meno male. Meno male, Iasparra, esatto. Continuate. Alessandro dalla provincia di Milano, radioascoltatore. Buongiorno. Mi dica. Allora, io volevo riallacciarmi al discorso che ha fatto una ascoltatrice di prima relativamente ai supermercati Conad che vendono merce, diciamo, prossima alla scadenza a metà prezzo. Esistono alcuni posti, anche a Milano, dove vengono vendute grosse quantità di merce prossima alla scadenza, ma anche di marca, e io, avendo bambini piccoli, prendo lì anche merendine piuttosto che succhi di frutta e cose che proprio vengono vendute a bassissimo prezzo. Per esempio, faccio un esempio, pacchetti da 40 merende a 3 euro, 4 euro, è una cosa che secondo me potrebbe servire a molti. Bene, la ringrazio, ringrazio Alessandro da Milano. Bene, ora vorrei leggere un po' di sms, ho poco tempo ma vedo di leggere qualcosa. Si spreca tanto perché si è spinti dai supermercati ad acquistare cose in quantità maggiore alle nostre richieste. Bene, credo caro radioascoltatore o radioascoltatrice che sicuramente uno su questo non è che può avere diciamo uno a disposizione che gli insegna quanto deve acquistare magari perché un certo numero di familiari. È evidente che ognuno si deve organizzare in modo proprio, quindi non diamo colpe assolutamente in questo caso, ce ne sono tante altre, ma questa non direi assolutamente. Poi c'è un altro radioascoltatore che dice 18 quintali di pane su 2 milioni di abitanti a Milano sono solo 9 grammi a testa. Bene, caro radioascoltatore, non hai capito forse il senso di quello che è uscito in questi giorni. I 18 quintali sono invenduti, quindi non è che sono arrivati nelle case e sono sprecati, sono buttati. Un discorso completamente diverso. Vedo che comunque gli sms si basano molto sulla scadenza e su da consumarsi preferibilmente, quindi io credo che soprattutto qui ci sia un discorso di educazione da fare al consumatore, perché no, lo dovrebbero fare gli stessi supermercati, sarebbe anche interesse loro, forse avrebbero meno invenduto se così insegnassero e dicessero veramente cosa significa dietro queste due tipologie di scadenza, qual è la differenza e soprattutto informare che non è nocivo un prodotto scaduto come può essere lo yogurt, ma sono tanti altri, anche la pasta ad esempio, anche l'olio, sicuramente organoletticamente non hanno il 100% di quello che avevano entro la data di scadenza, ma sicuramente non sono nocivi. Bene, abbiamo chiudiamo questa trasmissione con tanti interventi interessanti e tante esperienze in giro per l'Italia, veramente che sono, come posso dire, fanno ben sperare. E appuntamento tutti i giorni alle 18:30 con le pillole del Gastronauta. Buon weekend da Davide Paolini.